Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per parlare del film Ancora un giorno al cinema da mercoledì 24 aprile 2019. Dario, ben trovato. Ben trovato te Federico, ben trovati tutti. Cioè un giorno prima della festa della liberazione, non a caso. Eh sì. Allora, raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta. Sì, Ancora un giorno è un film che definirlo film è molto riduttivo perché è un oggetto molto ibrido, è un film che si avvale di immagini di repertorio, documentaristiche, ma in gran parte di animazione, ma anche di riprese al giorno d'oggi. È un collage confezionato da una coppia di registi, uno spagnolo, uno polacco, Raúl de la Fuente, che è un documentarista e seguì la vita di Kapuscinski, innamorato di Kapuscinski, e Damian Ninov, che invece è appunto un animatore polacco. Si sono messi assieme appunto per ripercorrere una pubblicazione, un reportage molto importante appunto di Ryszard Kapuscinski, dal nome appunto Ancora un giorno. Ecco, Ryszard Kapuscinski fu un reporter di guerra molto conosciuto, molto importante, scrisse un libro appunto che divenne un cult, quello da cui è tratto il film, e questo diciamo che è uno dei casi in cui la critica stessa si è spesa dicendo che è uno dei primi casi in cui il film pareggia probabilmente il libro. Non posso che confermarlo, ovviamente sono di parte, ma lo devo dire, è un film che però non solo io come distributore reputo è un capolavoro, lo dice anche l'Oscar europeo che si guadagnò appunto nel 2018 come miglior animazione, dopo essere stato poi proiettato in anteprima mondiale al Festival di Cannes dello scorso anno. Quindi è un film che ha avuto una lunga percorso festivaliero e di riconoscimenti, ma ancora più lunga fu la gestazione di produzione produttiva. È una storia talmente complessa dove si intrecciano ben 5 diversi paesi, varie produzioni e competenze differenti che hanno portato a ben 10 anni di produzione del film, che poi insomma è arrivato a noi, come dicevo, lo scorso anno al Festival di Cannes, e in Italia si è visto per la prima volta il giugno scorso al Biografilm Festival. Da lì anche in Italia c'è stato un bel percorso festivaliero che ha portato vari festival a programmare il film. In particolare segnalo un festival che si è svolto lo scorso weekend a Torino, che è Cartoons on the Bay, dove il film si è guadagnato la menzione speciale della giuria, ma anche gli incontri del cinema di Sorrento, che sono finiti lo stesso questo weekend, insieme a tanti altri festival e le varie anteprime che ci saranno di qui a mercoledì prossimo appunto. Quali sono i punti qualificanti di questo lavoro secondo te? Sono che sia innanzitutto una storia universale, è un film di animazione, un film documentario, ma che parla a tutto il pubblico, non ha un target di riferimento, è un film veramente per tutti ed è un pezzo di storia, perché insomma in pochi conoscono il lavoro del reporter di guerra e in particolare quello che viene messo a fuoco qua, ovvero la guerra che combatté l'Angola nel 75 per la per la propria indipendenza, ma più che l'Angola furono le varie forze geopolitiche internazionali, quindi soprattutto parliamo di periodo di guerra fredda, gli URSS e gli Stati Uniti che esercitavano la propria influenza in Africa e in particolare l'Angola era una di quelle scacchiere in cui muovere le proprie pedine politiche. In questo si ritrovò nel mezzo proprio Richard Kapuscinski, dove decise di parteggiare per la parte alleata con gli URSS e per la resistenza. Si ritrovò tra le mani una storia che poteva cambiare il destino dell'intero paese e non solo, quindi decise di coprire la resistenza appunto del fronte socialista, andando incontro a dei rischi immensi, fino a custodire un segreto appunto giornalistico la cui divulgazione poteva incidere tantissimo sulle sorti non solo di quel paese ma sulla geopolitica internazionale. Insomma, è un film carico di emozioni, è un film che è anche un'avventura, è anche un film molto avvincente, un'animazione di uno stile quasi da graphic novel eccezionale, è un film necessario da vedere. Non solo per il punto di vista storico che offre, ma come esperienza visiva in sé. Ecco, proprio sull'essere necessario, secondo me due sono gli elementi in tal senso. Il primo è la questione della stampa, del giornalismo. In molti paesi, oggi come ieri, sempre sotto attacco, in questo caso un reporter in zona di guerra, l'importanza di un occhio testimone. Assolutamente sì, è un occhio testimone, poi non qualunque, è un occhio testimone che non solo si è fatto carico di poter portare la conoscenza del mondo occidentale, ma del resto del mondo, dei fatti che diversamente non avrebbero voce, ma è anche un occhio che ha permesso a tanti volti, a tante persone di essere ricordate. Ecco, è proprio questo che Kapuscinski si ritrovò a fare, che gli stessi soldati, come si vedrà nel film, gli chiedevano di fare, quando era in trincea tutti gli chiedevano di essere fotografati per far sì che un pezzetto di loro, andando incontro a un destino difficile, potesse permanere nella storia. Ed è questo che richiede poi una dei personaggi, insomma, anche più principali di questo film, che è Carlotta, che è il personaggio che chi avrà la voglia, la forza, il volere, insomma, di vedere il film riconoscerà sicuramente anche nella locandina in bianco e nero. È una ragazza di nemmeno 20 anni, ma che già era la più valorosa tra i guerrieri dei combattenti della resistenza e che ai 20 anni purtroppo non c'è mai arrivata. L'altro elemento è quello delle ragioni. Oggi siamo in piena epoca di migrazioni di massa e fino a pochi decenni fa c'era un colonialismo diffuso, soprattutto europeo, e allora capiamo quali sono le ragioni di questi esodi di massa quando capiamo che le singole nazioni nei paesi del cosiddetto sud del mondo sono state depredate. Sì, insomma, la complessità di questo argomento è notevole. Certamente, diciamo, le migrazioni di oggi sono frutto di decenni di guerre e di lotte per determinati interessi dei quali difficilmente ci possiamo rendere conto oggi come singoli cittadini. Sicuramente la visione di un film come Ancora un giorno, di un reportage, ci permette di avere quel punto di vista in più, quello sguardo differente, ci permette di capire meglio la storia e capire meglio il perché di tante cose. È un approfondimento sicuramente storico importante, ma non solo, perché è un film che ha veramente un impatto emotivo importante, un impatto emotivo veramente profondo e che non lascia senza un brivido finale. È un film che noi stiamo lavorando come distribuzione da molto tempo, lo stiamo cullando e accompagnando all'uscita sala prevista appunto per il 24 di aprile in tante modalità, finché cerchiamo di portare, come dicevo all'inizio, a tutto il pubblico e non solo a un pubblico più affezionato ai film documentari o ai film de sé, e tramite varie modalità, tramite tante collaborazioni, una su tutte che mi fa piacere citare, ovvero con l'occasione dell'uscita del film, i Blue Beaters, il gruppo musicale, insieme a un altro conosciutissimo cantante, hanno scritto una canzone appositamente sul film chiamata Ancora un giorno, che si sentirà appunto sui titoli di coda del film, disponibile online. Non me ne veniva il nome del secondo cantante, che è Willy Peyote, probabilmente per i più giovani un nome molto conosciuto. In quante sale? Al momento posso dire che, come sappiamo, la programmazione cinematografica va di settimana in settimana, ma usciremo circa tra le 50 e le 60 sale, insomma sarà coperta un po' tutta l'Italia, da Palermo fino a Torino, nelle principali sicuramente. Magari per chi ci ascolta da qualche provincia dovrà aspettare un po' una settimana, un po' prima che arrivi nelle proprie sale, ma arriverà dovunque. E allora ricordiamo il film Ancora un giorno, al cinema da mercoledì 24 aprile 2019 con i Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Un abbraccio a te Federico e a tutti, e a molto presto. A molto presto, ciao. Ciao. Con Claudia Bedogni di Satin Film per parlare del film Sara e Salem, là dove nulla è possibile, al cinema da mercoledì 24 aprile 2019. Claudia, ben trovata. Buongiorno Federico, grazie ancora dell'invito, sempre graditissimo. Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta. Sì, guarda, non sarà una presentazione fredda, oggettiva, un po' didascalica, perché sono troppo coinvolta emotivamente con questo film e non lo nego, perché veramente l'ho amato tantissimo dalla prima visione in una saletta sparuta del Festival di Berlino del Mercato, anzi, dove appunto veniva presentato dopo la vincita del premio del pubblico e del premio speciale della giuria al Festival di Rotterdam. Perché lo amo così tanto? Perché diciamo che coniuga i due aspetti che secondo me sono fondamentali nel cinema, e sono il primo l'intrattenimento, perché un film avvincente, ora racconterò due parole sulla storia, ma lasciatemi dire questo, perché è proprio un film che assolutamente incolla lo spettatore alla poltrona. Io, in quanto primo spettatore del film, sono rimasta veramente molto molto colpita da questi quattro protagonisti assolutamente straordinari, emozionanti, da un film che è avvincente, che è passionale, che è sensuale. Insomma, come vedi, non sono molto oggettivi quando si vede il film. E l'altro aspetto invece, che è un aspetto molto importante, ovvero il cinema, che può essere anche un potente mezzo di informazione e proprio di comunicazione della realtà, che ci aiuta a capire un po' meglio la realtà che ci circonda, perché siamo a Gerusalemme, città santa ma da sempre contesa e divisa, quindi un luogo dove sicuramente non è facile vivere, e la storia è una storia estremamente intrigante, perché è una storia clandestina tra Sara, che è appunto israeliana e gestisce un bar a Gerusalemme Ovest, e Salim, che è il fattorino che effettua da lei le consegne, che è invece palestinese e vive a Gerusalemme Est. È una storia di un incontro passionale consumato nel furgoncino di lui. Non c'è nessun tipo di investimento sentimentale sul futuro. I due sono entrambi sposati, lei con un colonnello dell'esercito israeliano, lui ha una bellissima moglie che l'aspetta in attesa di un bambino, però le tensioni della vita quotidiana così ti permettono, come dire, di incontrarsi e passare quella mezz'ora insieme, dove rimangono, come dire, consumano un momento felice e poi ognuno torna alla propria vita. Solo che per uno scherzo del destino un giorno si ritrovano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. È quella che è una storia, appunto, un intrigo, un tradimento, che dovrebbe essere rimesso solo alle reciproche coscienze e ai propri familiari, da caso strettamente, da situazione esclusivamente privata, diventa invece un caso politico, a dimostrazione proprio come il sottotitolo che abbiamo voluto aggiungere: in questa terra martoriata nulla è veramente possibile. E quindi è un'occasione anche per conoscere il quinto protagonista, che è questa Gerusalemme, in tutte le sue sfaccettature umane, perché è chiaro che quando si parla di Israele e di Palestina il tema politico non può essere abbandonato, ma in questo caso lo sguardo del regista è uno sguardo umano, tant'è che i suoi protagonisti sono due attori israeliani e due attori palestinesi che insieme recitano in modo sublime in questo film, con tutte le difficoltà del caso che Mojad Alayan ha appunto raccontato durante il suo soggiorno qua con noi appunto in Italia per la presentazione del film. E quindi è un film anche un invito alla pace, con un finale straordinario di cui non posso ovviamente dire nulla, ma dove il ruolo della donna è molto importante, questo forse sì, lo posso anticipare come speranza proprio per la comprensione reciproca e per, come dire, forse l'unica possibilità per poter migliorare le sorti non solo di questa terra, ma anche, come dire, in tutto il mondo, perché poi quello che sembra così lontano in realtà, come vediamo quotidianamente, ci tocca molto più da vicino di quanto noi stessi possiamo immaginare. Quali sono gli aspetti del film che più hai apprezzato? Ma come ti dicevo, innanzitutto la storia, perché non era facile dover raccontare questa storia che non è, attenzione, Romeo e Giulietta, quindi una storia già vista, e in realtà potrebbe sembrare, certo, una storia, un intrigo magari, più Paola Francesca, ecco, una storia torbida e passionale, ma è come si proprio si snoda la sceneggiatura, tant'è che il film ha vinto Rotterdam proprio perché ha una sceneggiatura estremamente ben congegnata, assolutamente credibile, e tra l'altro ricordiamo, dimenticato di dirlo prima, il film si ispira a fatti realmente accaduti, quindi di fatto il regista è stato testimone fin da bambino, lui appunto è nato e cresciuto a Gerusalemme, poi ha studiato a San Francisco, ma comunque è testimone, ci raccontava lui stesso che queste storie sono all'ordine del giorno, però ha unito altre situazioni come quella dell'incursione appunto dei soldati israeliani a Betlemme, dove hanno anche, sono riusciti a venire in possesso di documentazioni private, assolutamente di persone comuni, quindi non assolutamente coinvolti a livello di spionaggio e né di resistenza palestinese, e a lui ha unito appunto queste informazioni immaginando cosa poteva accadere se effettivamente una storia tra una donna israeliana e un arabo palestinese potesse finire nelle mani delle autorità israeliane. Insomma, quindi è veramente avvincente il modo in cui questa storia si svela e si racconta poco a poco, perché l'intrigo è veramente ben costruito. Quindi questo sicuramente è il primo aspetto, anche perché il film, devo dire, dura 2 ore, ma non spaventatevi, amici spettatori, perché vanno, alcuni appunto la critica ha detto va veloce come un proiettile, effettivamente è vero, non si sente la pesantezza. E poi onestamente sono 4 attori pazzeschi. Cioè il film, ognuno ha le proprie ragioni, quindi non puoi che voler bene a questi personaggi, dove tutti sono di fatto perdenti, perché è difficile poi essere vincenti in una situazione del genere, ma tutti hanno un'umanità la quale non ci si può non affezionare vedendo il film. E poi appunto proprio lo sguardo profondo, perché capisci veramente, cioè ti senti parte di questa Gerusalemme, ti sembra di capire, no, le difficoltà della convivenza quotidiana, e ti senti proprio smarrito perché dici ma ci dovrà essere proprio una soluzione a questa situazione. Insomma, questo, scusate, ma io mi lascio trascinare. D'altronde sto girando come una trottola tutta l'Italia, prima con regista, adesso senza regista, per sostenere che credo che già è stato, come dire, un grande sforzo produttivo, perché è una compagine produttiva internazionale, perché chiaramente non è stato facile per il regista mettere insieme i fondi necessari, quindi è stato, insomma, bisogna anche incoraggiare, no, questo tipo di cinema. Poi noi abbiamo tutte le difficoltà del caso legate, come sappiamo, alla distribuzione indipendente, quindi devi fare uno sforzo doppio, quindi se non c'è la passione e un minimo di pathos, devo dire, non so cosa ci sia veramente la forza per poter lottare e portare questo tipo di film al cinema, quindi scusate questo coinvolgimento. Altro punto di interesse è proprio la figura del regista Alayan, che dicevi ha studiato a San Francisco, ma poi è tornato in Palestina, dove ha fondato un collettivo di registi e artisti audiovisivi, e dopo un documentario, questo è il suo secondo lungometraggio di finzione. Esattamente, e la cosa incredibile è che, a parte che è una persona, devo dire, straordinaria, Mojad questa settimana con lui è stato veramente un grande piacere. E poi è giovanissimo, infatti io gli ho detto, ma io non mi aspettavo che tu fossi così giovane, perché sei riuscito a realizzare un'opera così, così compiuta, così matura. E lui mi ha detto, ma sai, vivere a Gerusalemme diventi vecchio dentro, ed è una cosa che mi ha, devo dire, veramente molto colpita. La sceneggiatura l'ha scritta a quattro mani con il fratello Rami, e lui è molto attento infatti ai giovani palestinesi, questo devo dire è ammirevole, un po' come ha fatto anche il Marie Jassir, no? Ricordiamo che l'anno scorso abbiamo distribuito, lato con un bel riscontro, Wajib, Invito al matrimonio, ed è apprezzabile che questi registi così, che si riescono a distinguersi all'estero partecipando, vincendo in festival e tutto il mondo, poi in realtà scelgono volutamente di rimanere a casa per incoraggiare proprio lo sviluppo di talenti. Forse, come sempre, per citare appunto un commento critico che mi è piaciuto moltissimo, sono quelle sorprese che sbocciano là dove forse l'arte, dove, cioè l'arte appunto sboccia dove, là dove la vita è più difficile. E in quante sale sarà? Ma guarda, oggi siamo riusciti nel giro di 24 ore, non so come miracolosamente, ad aggiungere tipo una ventina di copie in più, quindi è veramente facendo i salti mortali per consegnarle in giro per l'Italia. Dovremmo essere sulle 35, poi sai, speriamo, perché i ponti, è chiaro, è sempre complicato, ci sono tanti bellissimi film in concorrenza, non c'è spazio abbastanza per tutti, e questo devo dire è un grande peccato, perché oggi si chiede troppo allo spettatore, si chiede veramente di dividersi non in quattro, in molto di più, per riuscire a vedere tutta l'offerta. Poi per carità, non tutto magari meritevole, però nella confusione generale mi rendo conto che è difficile poi selezionare quelli che magari sono i film che possono colpire veramente, e altri invece che sono così, magari hanno una forza promozionale in più rispetto ad altri. Allora, ricordiamo il film Sara e Salem, là dove nulla è possibile, di Muayyad Alayan, al cinema da mercoledì 24 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, grazie, a presto, grazie ancora. Ciao. Con Federica Pacifici di Tvartenov Distribuzione per parlare del film La caduta dell'impero americano di Denis Arcand, al cinema da mercoledì 24 aprile 2019. Federica, ben trovata. Ciao Federico, spero tutto bene. Bene, bene. Lo descriviamo brevemente a chi ci ascolta? Assolutamente sì, guarda, la caduta dell'impero americano, il suo diciamo claim naturale che abbiamo utilizzato è: dopo il declino dell'impero americano arriva la sua caduta. È un film di Denis Arcand, che già conosciamo molto bene appunto per il declino dell'impero americano e anche per le invasioni barbariche, che questa volta ci parla appunto della caduta, la caduta che però è una caduta diciamo morale, e di certo che non è solo dell'impero americano, ma anche di quello canadese in qualche modo, visto che il film è ambientato in Canada e il suo padre è canadese, fortemente canadese, ma anche europeo, perché poi ci infiliamo anche noi in questo flusso, no, di caduta morale. Sicuramente avrai sentito parlare insomma di una trilogia che conclude con questo, diciamo appunto la trilogia dei due film che ho citato precedentemente. Se nel declino diciamo il sesso era un po' l'argomento centrale, no, di questo gruppo di intellettuali, e se, come ricordiamo bene, nelle invasioni barbariche la morte in qualche modo era la protagonista del film, fra virgolette, in questo caso, e da qui appunto la caduta, il protagonista del film è il denaro. Ci tengo a dire che appunto noi, come anche i francesi, abbiamo iconograficamente fatto una scelta ben precisa, cioè di utilizzare nel poster italiano insomma la statua della libertà che stringe un mucchio di banconote mentre altri soldi bruciano appunto nell'aria, e che abbiamo fatto una scelta in qualche modo un pochino più delicata rispetto a quella che era stata la scelta di Denis Arcand, che in Canada, la sua terra natia, è uscito con la statua della libertà che nascondeva dietro le spalle un mitra. e ad averlo saputo, perché noi, come dire, abbiamo fatto una scelta di classe, anche, come dire, un po' più affine ai nostri gusti probabilmente, e poi ci siamo ritrovati il ministro dell'interno che imbracciava un mitra, no? Pochi giorni fa, ad averlo saputo in qualche modo. Però ecco, questo in qualche modo è per presentarti il film. Descriviamolo un attimo. Allora, il film in realtà è una commedia nera, proprio così te la descriverei in questa maniera. Il protagonista è Pierre Paul, che è un 36enne con un dottorato in filosofia, il cui lavoro è fare il fattorino, quindi consegna pacchi. I primi minuti del film in qualche modo ti danno proprio anche il pedigree del film, perché è un meraviglioso dialogo che in realtà fa un monologo in cui Pierre Paul si definisce troppo intelligente per poter diventare ricco in questo mondo, quindi come se fosse appunto una dote degli stupidi quella di poter diventare ricchi, e questo te la dice lunga un po' anche su quello che poi ti viene raccontato successivamente. Pierre Paul è il fattorino, mentre sta facendo i suoi consueti e noiosissimi giri di consegne, si trova suo malgrado a trovarsi sulla scena di una rapina a mano armata che finisce malissimo. Infatti tutti i protagonisti, nonché i testimoni di questa rapina, muoiono. Lui in un attimo vede due borse abbandonate lì vicino a uno dei cadaveri, ci pensa un secondo, poi le afferra e se le chiude dentro il suo camion. Ovviamente sono due borse, come nel più facile immaginario, piene zeppe di soldi, e da qui, come dire, questa l'incipit per la creazione di questa banda un po' particolare, in cui appunto il fattorino filosofo è in qualche modo l'ideatore, e che poi nella storia incontrerà una escort di lusso che si fa chiamare Aspasia e che ci darà Sin, ma un ex galeotto motociclista che è esperto nella movimentazione di denaro, nonché a un esperto di paradisi fiscali. Questo gruppo un po' strano si occuperà di far fare una buona fine a questa quantità di denaro enorme che Pierre Paul ha incontrato all'inizio del film. Questo è fondamentalmente il film. Appunto, come ti dicevo, è una commedia nera. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Io indubbiamente ho apprezzato una cosa che tra l'altro è stata anche una qualità che è stata citata dopo l'uscita canadese del film. Il film in Canada è uscito già qualche mese fa, e fondamentalmente è un po' la facilità con cui Arcane propone questa storia, come se appunto una facilità ad afferrare quello di cui si sta parlando, nonostante poi non sia un film facilissimo o un film banale. È sicuramente un film che usa i cliché, però li usa in un modo che appunto ho apprezzato moltissimo. Non a caso, non voglio spoilerare niente, ma non credo anzi di farlo, però il film c'è proprio un happy end, tra virgolette, perché appunto è sempre tutto in termini all'Arcane, un happy end all'Arcane, e poi c'è un'aria un po' brechtiana che si respira, perché comunque questi personaggi e le loro dinamiche e gli oppositori, quindi che vanno a creare problemi e deviazioni a questo piano, sono così molto interessanti, appunto brechtiani. Questa è la parte che io ho apprezzato di più del film. Stavo pensando alla particolarità di questa trilogia, che ha impiegato a chiudersi più di 30 anni, nel primo film dell'86. Eh già, sì. Diciamo che ci sono registi che si prendono tempo per fare i loro discorsi, poi magari potrebbe scatenarsi tutto insieme adesso e proporsi, non so, una sfilza di 10 titoli nei prossimi 10 anni. In quante sale sarà? Saremo in circa 50 sale, c'è chi parte domani, chi parte invece come di consueto con il giovedì 25, e ci tengo a dire dove siamo: a Roma, visto che il tuo pubblico è soprattutto romano, e siamo all'Eden, alle Orcine, al Quattro Fontane e al Roxy Parioli. Ricordiamo il film La caduta dell'impero americano di Denis Arcand. Al cinema da mercoledì 24 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Federica Pacifici di Partenos Distribuzione. Federica, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo! lupo e a prestissimo. Ciao Federico. Con Irene Dionisio, direttrice della 34esima edizione dell'Overs Film Festival a Torino, dal 24 al 28 aprile 2019. Irene, ben trovata. Buongiorno a tutti. Ci racconti di questa edizione? Sì, questo festival si basa su, diciamo, una commissione tra chiaramente un cinema selezionato da più grandi feste internazionali, ma anche interessanti nuove scoperte che troverete dalla sezione iconoclasta fuori formato fino al nostro chiaramente concorso internazionale, e naturalmente una serie di eventi speciali, tra cui per esempio la presenza di Erika Lass a Torino, o per esempio la serata che faremo per il 25ennale di Priscilla, The Queen of the Desert, e arrivando poi naturalmente alla presenza della nostra madrina Alba Rovac, dei nostri ospiti d'onore Giancarlo Giannini e Helmut Berger, a cui dedichiamo chiaramente un omaggio interno al festival. Okay. Quindi è un festival che è dedicato naturalmente ai motivi Stonewall per il cinquantenario, che sono stati il primo movimento di liberazione omosessuale internazionale. Ci racconti quali sono anche le caratteristiche fondanti del festival? Allora, il festival ha come base quello di essere chiaramente un festival di comunità e che racconta la comunità LGBTQI in tutte le sue sfaccettature e sfumature e che lavora su questioni chiaramente di genere, ma allo stesso tempo un festival che ha sempre fatto ricerca cinematografica scoprendo nuovi autori. Da questo festival sono arrivati autori quali Gus Van Sant, ma anche per esempio da noi è passato, diciamo, in un momento ancora non sospetto, Ivory per esempio. Quindi è un festival che sicuramente punta tantissimo sia nel suo concorso internazionale cortometraggi, sia appunto nel nostro concorso che ha 9 film, a scoprire chiaramente nuovi talenti, e quindi abbiamo moltissime opere prime naturalmente all'interno del festival. Ecco, quante sono le opere presentate in questa edizione? Il festival quest'anno ha 102 film con 28 nazioni rappresentate, appunto 4 concorsi, e una serie di omaggi. Naturalmente abbiamo anche un focus di 5 titoli curato dal nostro fondatore Giovanni Minerva, che come sapete nell'86 ha fondato con Ottavio Mai, il suo compagno, il festival. E ci racconti anche come sarà strutturato e quali saranno i luoghi? Si muove come sempre tra la Mole Antonelliana, dove inaugureremo una mostra antologica delle fotografie di Asia Argento dentro la donazione del cinema con appunto il nostro presidente Sergio Tossetti, poi chiaramente abbiamo la nostra sala del cinema massimo, le 3 sale, quindi Capiria, Rondolino e Soldati, e poi abbiamo, normalmente noi ci appoggiamo al Circolo dei Lettori, che è un luogo appunto noto della cultura torinese, che ospiterà al mattino una serie di eventi legati proprio alle riflessioni sulle tematiche LGBTQI e con dei panel. È prevista anche la presenza di ospiti degli autori delle opere? Sì, sì, assolutamente. Allora, per esempio, gli italiani avremo presenti Fabio Leli e Adele Tulli, che presentano 2 magnifici film. Adele Tulli apre il nostro concorso documentari con Normal, che è già stato a Berlino. Poi naturalmente avremo Fabio Leli, che invece per un evento speciale presenta L'Unione fa la forza, che è un film molto atteso dalla comunità gay italiana, proprio perché parla in maniera molto ironica di quella che è la crescente omofobia in Italia. Poi sarà presente Erika Lass per un focus che faremo sulla sua produzione lesbica pornografica, che lavora naturalmente contro un'idea patriarcale di una visione desiderante ed erotica. Poi avremo all'interno del festival presenti, chiaramente non diciamo come autore ma come rappresentante di 2 film, Helmut Berger, e naturalmente Aira Sachs per il suo omaggio, perché quest'anno sarà con Frankie, con Isabelle Huppert a Cannes per diciamo in concorso. È stato nel 97 premiato con il suo primo film The Delta, e quindi l'abbiamo voluto omaggiare all'interno del nostro festival presentando 5 suoi film. Considerato che è un festival storico, come si sta sviluppando? Che percorso ha intrapreso? Da 3 anni ha cercato di coniugare quella che è naturalmente la visione di questi dei precedenti 31 anni diretti da Giovanni Minerva, che è stato presidente e fondatore del Festival adesso insieme a me, quindi cerchiamo chiaramente di lavorare in sinergia anche nella situazione dei film, e semplicemente abbiamo lavorato cercando di allargare un po' lo sguardo soprattutto sulla questione delle dialettiche queer, che sono, diciamo, raccontano molto la contemporaneità anche della comunità LGBT, e naturalmente anche la questione di genere, che si è in qualche modo imposta prepotentemente e giustamente anche in una maniera in qualche modo scontata, perché era una questione che si doveva affrontare in qualche modo, che chiaramente è approfondita con una serie di percorsi internamente al festival. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora, basta andare sul sito www.loversff.com oppure sul sito museonazionaledelcinema.com e trovare all'interno la sezione festival in cui ci presenta anche il nostro. E allora ricordiamo la 34esima edizione dell'Overs Film Festival a Torino dal 24 al 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Irene Dionisio. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Con Sabrina Baracetti, direttrice della 21esima edizione del Far East Film Festival a Udine, teatro nuovo e visionario dal 26 aprile al 4 maggio 2019. Sabrina, ben trovata. Ben trovati a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, da Udine. Ci racconti? Siamo quasi pronti, nel senso che domani partiamo questa nuova avventura che appunto compie 21 anni. Si tratta del Far East Film Festival, un festival che abbiamo creato qui a Udine molti anni fa oramai, dedicato al cinema popolare asiatico. Volevo così riassumere, perché ogni tanto bisogna ricordare anche quello che si è fatto in passato per capire dove stiamo andando e che direzione stiamo andando. Ora che i film asiatici comunque vengono considerati anche dai major festival, devo dire che il lavoro fatto da Far East in questi 20 anni è stato quello di andare a fondo, fare ricerche, andare a cercare quelli che sono i nuovi talenti del futuro. Fino a qui, perché quasi il 21esimo anno sembra portare con sé un aspetto di un nuovo inizio, fino a qui ci sono stati moltissimi nomi che Far East è riuscito a lanciare a livello internazionale, che poi hanno camminato sui red carpet di importanti festival come Cannes, Venezia e come Berlino. Cito uno fra tutti, perché ha appena compiuto gli anni, Johnny To, che quest'anno ci mancherà moltissimo, ma appunto mi permette anche di dire che Far East di quest'anno ha molti film di Hong Kong, e quindi è un po' un ritorno a quello che è stato il nostro primissimo colpo di fulmine. Ma a parte il cinema di Hong Kong, che viene rappresentato da questo omaggio che faremo ad Anthony Wong, uno dei nostri beniamini, che appunto apparteneva a quel cinema hongkongese di cui ci siamo innamorati e che premieremo con il premio a carriera, con un film meraviglioso che si chiama Still Human, un'opera prima che voglio subito citare tra le highlights di quest'anno, di una giovane regista che si chiama Oliver, questo è anche il nome bizzarro per una donna, Oliver Chan. Quindi Still Human con Anthony Wong è una delle highlights di quest'anno. Dicevo, non solo Hong Kong, ma è decisamente quest'anno l'anno della Cina e della Corea del Sud. Corea del Sud perché proprio nel 2019 ricorre l'anniversario della nascita del cinema coreano, quindi sono esattamente 100 anni di cinema coreano, che noi festeggiamo con un'ampia selezione di nuovi film, anzi nuovissimi film, a cominciare dal film d'apertura, di cui parleremo fra poco, ma anche andando a ripercorrere alcuni fasti del passato del cinema coreano. Quindi andiamo a raccontare attraverso una retrospettiva che è firmata da Darcy Packett, oramai uno dei più grandi esperti di cinema coreano, che è nato proprio anche con Udine Far East Film Festival e che ha voluto indagare un personaggio, la figura del cattivo all'interno di un periodo storico che è quello della dittatura, che parte all'inizio degli anni 60 per concludersi nei primi anni 80. Quindi la retrospettiva, che sarà formata da 8 film, che vedremo tutti appunto, alcuni di questi personaggio che ha scelto di vivere una vita ai margini, quindi è sia donna che uomo, ma che ha scelto il male. Infatti la retrospettiva si chiama I Choose Evil, cioè i personaggi sono delle persone comuni, delle persone normalissime, che per tutta una serie di scherzi del destino finiscono per scegliere appunto una via che non è quella apicamente retta, ma alla fine conquistano lo spettatore, perché chiaramente sono personaggi che hanno luci, che portano con sé luci e ombre, e che ovviamente sono anche molto affascinanti, seppure moralmente molto discutibili. Quindi questa retrospettiva viene accompagnata da un'applicazione, da un libro che approfondisce quel periodo storico, e ovviamente anche uno strumento per capire cosa sta succedendo oggi in Corea. Ma a proposito della Corea, volevo subito partire con quello che è il film d'apertura, appunto, partire con Birthday, il film che appunto aprirà domani la 21ª edizione di Fares Film Festival. È un film importantissimo perché è un film che tutta la nazione stava aspettando da tempo. Sono passati infatti esattamente 5 anni da quella che è stata una tragedia nazionale che ha colpito tutta la Corea. La tragedia del traghetto Sewol, che si inabissò al largo delle acque del mare appunto coreano nell'aprile 2014 e che portò la morte di 300 ragazzi studenti liceali che erano in gita scolastica. Dunque questo è stato un avvenimento assolutamente drammatico, dal quale la Corea stessa da molto tempo non è riuscita ad uscirne. Quindi un film come quello che presentiamo, Birthday, che non racconta il fatto di cronaca, ma racconta il dopo attraverso la vita di una famiglia che ha avuto chiaramente un lutto all'interno di quel tragico avvenimento e che cerca di superarlo. Quindi una sorta di film che mostra come una nazione, se unita, riesce a superare anche dei momenti difficilissimi come appunto quello del traghetto Sewol del lontano 2014, quindi 5 anni da quell'avvenimento. A presentarlo Udine, domani sera ci sarà la regista del film, una giovane regista coreana che ha indagato a lungo questo fatto, e assieme a lei la più grande attrice di tutti i tempi per la Corea, che è la Jeon Do-yeon, che sappiamo appunto essere stata premiata con la Palma d'Oro a Cannes per il film Secret Sunshine di Chandong, che comunque è una dei volti più amati del cinema coreano, del cinema anche internazionale. Quindi siamo molto in fibrillazione perché sta per arrivare la super diva che salirà sul palco appunto domani sera. Quante saranno le opere nel complesso? Nel complesso sono 77 quest'anno e arrivano da 13 cinematografie diverse. 14 sono gli esordi, che sono cioè delle opere prime, che saranno giudicate da una piccola giuria, perché comunque il Festival di Udine è sempre basato sul fatto che il pubblico sceglie il suo migliore film. Ma dall'anno scorso abbiamo deciso di sottolineare la presenza di nuovi autori e per farlo abbiamo istituito un nuovo premio che si chiama White Mulberry, cioè il gesso bianco, e il gesso bianco andrà a premiare l'opera, appunto, l'opera prima più bella, secondo una giuria formata da 3 persone, 3 rappresentanti tecnici, diciamo, del cinema internazionale. E allora ricordiamo la 21ª edizione del Far East Film Festival a Udine, Teatro Nuovo e Visionario, dal 26 aprile al 4 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Sabrina Baracetti. In chiusura, Sabrina, ci lasci i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente, allora il sito del festival è farisfilm.com, quindi ci sono tutte le informazioni, siamo anche sulla pagina Facebook, chiaramente Udine Faris Film Festival. Vi ricordo che ci sono moltissime anche cose delle chicche assolutamente da non perdersi, quindi anche cose più estreme come il film horror di Mikael Red che si chiama Hiri, che è uno dei film che sto spingendo in tutti i modi perché è una delle cose più belle che abbiamo visto recentemente dalle Filippine. E ci sarà anche il nuovo film di Bang Cheong, Misbehavior, che appunto anche porterà molto divertimento in sala. Quindi vi aspettiamo. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao. Davide Mastrangelo, co-direttore della quarta edizione di Ibrida, Festival delle Arti Intermediali a Forlì, Fabbrica delle Candele, dal 26 al 28 aprile 2019. Davide, ben trovato. Ben trovato, ciao, ciao. Raccontiamo intanto cos'è, visto che è la prima volta che ne parliamo insieme. Ibrida è un festival dedicato all'audiovisivo sperimentale e ha ovviamente tutte le sue forme e declinazioni, quindi è un festival che mette al centro l'audiovisivo e le ibridazioni dei linguaggi, legate sempre ovviamente all'audiovisivo, quindi tutto quello che verrà presentato all'interno del festival sarà filtrato attraverso appunto l'audiovisivo e gli artisti, quindi con performance live, con musica e ovviamente installazioni. Com'era nato? Ibrida nasce nel 2015, in realtà la prima edizione fu un happening, quindi una serata unica dove abbiamo fatto una chiamata agli artisti e ci siamo incontrati, da lì poi è venuto fuori appunto la costruzione del festival. È nato così, diciamo spontaneamente, senza nessun programma prima, a priori, di cosa doveva essere o non doveva essere, quindi è nato in maniera spontanea, da un'esigenza. In questo aprile ci sono stati già due appuntamenti preliminari, come si svilupperanno queste tre giornate? Allora, le tre giornate si svilupperanno con installazioni, proiezioni e performance live e musica e concerti, quindi questa è la struttura delle giornate. Di solito partiamo alle 8 con l'apertura di due sale, una sala curata dall'Aperto Project, che è l'associazione che organizza anche tutto l'evento, quindi che è composta oltre che da me e Francesca Leoni, siamo i direttori artistici, anche da altre persone, e poi ci sarà una sala invece dedicata a Piero De Giovanni, che farà una sua curatela diversa a seconda di ogni sera. Ci saranno delle proiezioni esterne con delle video installazioni e due spettacoli. Il primo spettacolo è una performance live e il secondo invece è un concerto sempre intermediale, quindi con l'utilizzo dell'audiovisivo. Questa è la struttura ovviamente diciamo generica del festival, poi ogni serata ha artisti differenti. Quanti saranno gli artisti? Quali sono le proposte di quest'anno? Gli artisti sono veramente tantissimi, nel senso che di solito sono circa ad ogni sezione curata all'interno dei video una decina di video, e quindi se pensiamo già solo alla sala esterna, alle due sale e ovviamente alle performance live, si parla di circa una ventina di artisti, cioè di lavori di artisti, ovviamente di opere degli artisti. E per quanto riguarda i live invece sono ovviamente soltanto due in questo caso. I luoghi del festival? Si svolge tutta la Fabbrica delle Candele, siamo partiti con appunto incontri a Palazzo Romagnoli, e invece tutto il programma del 27 e 28 si svolgerà in un luogo unico, la Fabbrica delle Candele, che sarà suddiviso ovviamente da più sale e da più situazioni. L'idea del festival è quella anche di far fruire il pubblico liberamente all'interno degli spazi, quindi ovviamente non è un festival che diciamo costringe lo spettatore, il fruitore nella visione del lavoro, ma lo lascia libero di poter girare, perché ad esempio i video di cui vi parlavo prima delle sezioni durano una quarantina di minuti e vanno in ciclo continuo per tutta la serata, quindi significa che verranno riproposti almeno 4-5 volte a serata. L'unica cosa che ovviamente ha degli orari predefiniti con un inizio ed una fine sono le performance live, che vengono strutturate in maniera diversa. Ad esempio la prima serata abbiamo Francesca Fini con Skin Toes, e la seconda a seguire abbiamo invece Okapi con Opera Riparata, tributo a Bruno Munari. Il sabato invece successivo ci saranno live Jacopo Ienna, sempre con il suo lavoro, e Basmati Film. Queste sono le due serate di venerdì e sabato. Chiudiamo domenica con un solo live di Luca Maria Baldini, che ovviamente lavora sull'insonorizzazione di un film muto, in questo caso L'Uomo Meccanico, restaurato dalla Cineteca di Bologna, dove appunto lui va a lavorare attraverso l'insonorizzazione, attraverso la manipolazione anche dei suoni contemporanei e con reminiscenze ovviamente e riferimenti all'epoca. Una è da una sua elaborazione di quello che è questo film muto, che è un film diciamo molto particolare, perché penso sia uno tra i primi film del 21 della lotta fra due robot, ecco, quindi è una cosa abbastanza interessante, italiano oltretutto, quindi insolita diciamo. Rispetto alla prima edizione, visto che siamo alla quarta, che percorso ha intrapreso il festival? Rispetto alla prima edizione, ovviamente, come spesso accade, la prima edizione è una prova, cioè nel senso che dopo l'happening abbiamo allungato a due giornate, se non sbaglio, mi sembra che erano due, ormai invece in questa quarta edizione sono tre serate le principali, più due giornate di incontro dedicate all'audiovisivo, più una mostra che andrà invece in una libreria dal 28 aprile all'11 maggio, quindi il festival è molto più articolato. Ci sono molte giornate dedicate anche alla parte critica, che una volta ovviamente mancavano perché erano soltanto dedicate allo spettacolo live, principalmente alla performance e poi all'audiovisivo, quindi ovviamente c'è un'attenzione maggiore verso la parte critica e un ampliamento del programma in generale e ovviamente delle conoscenze e delle reti. Oggi abbiamo all'attivo anche collaborazioni con festival internazionali, tra cui quest'anno Video Art Meeting e Strangoscope, che sono un duo brasiliano che ci presenta anche loro una video installazione che sarà in esterno, sempre alla Fabbrica delle Candele. Per tutti i dettagli ci lasci i riferimenti web? Per tutti i dettagli potete andare sul sito ibridafestival.it e lì ovviamente si troverà il programma e quant'altro, sempre Ibrida Festival, pagina Facebook, Instagram, quindi diciamo che cercando Ibrida Festival programma dovremmo essere abbastanza indicizzati, troverete comunque tutto all'interno del sito internet dedicato e ovviamente social annessi. Allora ricordiamo la quarta edizione di Ibrida, Festival delle Arti Intermediali a Forlì, Fabbrica delle Candele, dal 26 al 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Davide Mastrangelo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a te. Con Sara della rete Kurdistan per parlare dell'appello rivolto al mondo della cultura e dello spettacolo a sostegno del cinema curdo che è sotto attacco da parte del governo turco. Sara, ben trovata. Buongiorno a tutti e a tutti. Sì, da diverso tempo, come sappiamo ormai, il governo turco, in particolare ovviamente il governo di Recep Tayyip Erdogan, sta portando avanti una durissima battaglia contro qualunque forma di dissenso all'interno appunto dello Stato turco, in particolare contro gli esponenti del mondo culturale e politico curdo. Per quanto riguarda l'appello che abbiamo deciso di scrivere insieme a Wiki Onlus, Rete Kurdistan Roma Italia, centro culturale, centro socioculturale Ararat qui a Roma, stiamo parlando di una forma particolare diciamo di repressione del dissenso interno, che è quella che viene diretta nei confronti di ogni forma di arte che richiami ovviamente al patrimonio culturale curdo all'interno appunto dei confini turchi. Negli ultimi mesi si sono intensificate le operazioni di denuncia nei confronti di registi curdi che hanno prodotto film documentari in Turchia in lingua curda o anche in lingua turca. Come sapete, nella storia appunto del popolo curdo in Turchia c'è anche il divieto, che per lungo tempo è stato portato avanti da parte dello Stato turco, di parlare la propria lingua, quindi le varie lingue che diciamo fanno riferimento alla lingua curda, e poi anche di ovviamente produrre opere culturali che fossero in lingua curda. C'era il divieto appunto di parlare della lotta dei curdi e delle curde all'interno di opere teatrali, letterarie, canzoni, film, e quindi qualunque film che viene che racconta diciamo queste storie, la storia di resistenza o anche storie di repressione espressione, come nel caso appunto di alcuni film che già nel passato erano stati censurati o registi perseguitati, l'espressione appunto del dissenso curdo, vengono tacciati di propaganda terroristica. E l'ultimo caso è quello del regista Veysi Altay, che si è occupato per anni di diritti umani in Turchia, partecipando anche a mostre collettive di fotografia. Lui nasce, diciamo, come fotografo, ha lavorato tantissimo come fotografo anche insieme a organismi per la salvaguardia dei diritti umani come Amnesty International sulla questione dei desaparecidos in Turchia, sulle fosse comuni che sono state scoperte alla fine degli anni 90, sulle madri che lottano ogni giovedì, si recano al centro di Istanbul per reclamare la verità sui propri figli, sui giovani e meno giovani che a un certo punto, a causa del loro sostegno, insomma, alla battaglia per il diritto per i diritti del popolo curdo, scompaiono, diciamo, dalla circolazione, vengono arrestati e poi non vengono più, non sono più stati ritrovati. L'ultimo film, l'ultimo film di Veysi, perché ora ne ha fatto anche uno più recente, che era Nujin, ha destato particolare attenzione, probabilmente perché racconta la battaglia delle guerrigliere a Kobane, con un taglio molto particolare perché è dedicato proprio alla lotta di queste donne, che lottano in primo luogo perché donne in un contesto, diciamo, di in una cultura fortemente maschilista, in una cultura fortemente patriarcale, quindi è una lotta che si unisce, diciamo, alla battaglia contro ISIS, e quindi è un film molto molto interessante che tra l'altro in Europa ha avuto anche diversi premi, è stato premiato al Babel Film Festival in Sardegna, è stato visionato a Stoccolma, è stato proposto anche qui in Italia in una serie di iniziative culturali. Come lui, altri registi in precedenza, nei mesi precedenti, erano stati colpiti con la stessa accusa, erano stati condannati sempre per propaganda terroristica. Basta ricordare Sir Ghia Settin, un altro regista appunto che per raccontare appunto la storia delle curde e dei curdi era stato condannato per lo stesso, diciamo, reato. Più famosi forse sono al pubblico, diciamo, italiano, sono Chayan Demirel e Ertuğrul Magioglu per il film Bakur Nord, che racconta anche lì. Bakur è la zona nord, diciamo, del Kurdistan, quindi il Kurdistan al confine, diciamo, con l'Iraq. E questi due registi, uno era un regista, l'altro invece Magioglu è un giornalista, alla fine, diciamo, del 2018 erano stati colpiti con la stessa condanna da un tribunale della stessa città che ha condannato Veysi Altay, che è Batman, città particolarmente, diciamo, vicina, diciamo così, al regime di Erdogan, e quindi anche loro hanno subito questa forma, diciamo, di attenzione particolare. Loro due sono stati arrestati, Veysi Altay al momento si trova sotto osservazione, diciamo così, dalle autorità turche, non è stato ancora arrestato perché stanno aspettando un secondo processo per lo stesso reato da un altro tribunale, e quindi per il momento gli avvocati hanno fatto ricorso e stanno aspettando appunto quest'altra sentenza. Per cui è un aspetto, diciamo, della storia del popolo curdo meno noto probabilmente, che però fa da contorno a quello che si sta vivendo in Turchia, che si sta vivendo adesso anche al confine, diciamo, con la Siria, e che riguarda la vita quotidiana di diverse centinaia di persone, non solo registi e registi a essere colpiti, ma anche cantanti, giornalisti. Abbiamo visto molto spesso la repressione nei confronti anche di moltissimi giornalisti che osano semplicemente mettere in dubbio molto spesso anche operazioni di polizia arbitraria che vengono fatte in Turchia. Per cui la scelta di scrivere questo appello e di farlo sottoscrivere al mondo della cultura italiano, che solitamente è estremamente sensibile anche a questi temi, nella speranza di farlo arrivare anche simbolicamente, diciamo, al Ministero dei Beni e Attività Culturali italiane, che ha comunque dei rapporti con l'omologo, diciamo, turco, delle cose di coproduzione con la Turchia e gli accordi per i festival internazionali, affinché, insomma, anche la voce del mondo della cultura e dello spettacolo italiana arrivi. Devo dire che in questi primi, diciamo, 10 giorni di circolazione hanno aderito anche registi e registi molto conosciuti in Italia, che hanno sposato, diciamo così, di getto, insomma, questo appello. Mi vengono in mente Giovanna Tajani, Valerio Mastrandrea, Michele Zero Cascare, il fumettista, e Alessio Spataro, altro fumettista, Ivan Borman, insomma, per citare solo quelli che forse conosciamo di più, e hanno aderito tantissime anche realtà culturali che si occupano di cinema, non lo producono ma lo diffondono, cosa ancora più importante, il Babel Film Festival, il Festival dei diritti umani di Napoli, la rivista Zapruder, l'associazione 100 autori, degli autori cinematografici, che insomma è uno degli attori importanti anche nel cinema insomma indipendente italiano, e quindi speriamo che raccogliendo insomma le voci di tutte queste persone e realtà collettive indipendenti si possa insomma far sentire anche questa voce, che secondo me insomma è abbastanza importante per affiancare la battaglia insomma del popolo curdo per la propria libertà e per il diritto di esprimersi nella propria lingua, di raccontare anche la propria storia. In chiusura ci lasci i riferimenti web per aderire? Cioè l'appello è pubblicato sul sito di Rete Kurdistan Italia, lo trovate appunto nella home della pagina, c'è anche su Facebook nella pagina di Centro Ararat, che è il centro appunto centro socioculturale che si trova qui a Roma, e c'è una mail per poter aderire che è cinema.curdo@gmail.com, dove appunto inviare la propria adesione indicando nome e cognome e anche diciamo così l'attività che viene fatta, perché se è molto più facile diciamo raccogliere le firme di chi è già più conosciuto, quando per far anche conoscere che esiste un mondo del cinema italiano, della cultura italiana, che è fatto anche di tanti altri nomi, di tante altre realtà, quindi stiamo cercando di farlo girare il più possibile, per cui vi ringraziamo anche di questa telefonata. Ricordiamo l'appello a sostegno del cinema curdo sotto attacco da parte del governo turco. Un saluto e un ringraziamento a Sara della rete Kurdistan, un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio a voi, buona Ciao. Giornata. Ciao. Con Matteo Pavesi della Cineteca per parlare della rassegna Cinema is the Future, con 5 documentari sull'ambiente a Milano, al Museo Interattivo del Cinema, dal 7 al 28 aprile 2019. Matteo, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie di questo invito. È una rassegna a cui la Cineteca, il Museo, vuole bene, perché ci sembra doveroso fare anche noi la nostra parte e proporre a un pubblico, speriamo anche di giovani che sono scesi in piazza, 5 lavori che raccontano bene il tema dell'ambiente, raccontano bene quanto l'uomo in modo sconsiderato stia rompendo tutto, e raccontano bene anche alcune dinamiche di globalizzazione che ci passano sopra la testa. A volte non ce ne accorgiamo. La mitica via della seta in realtà è già molto prima delle visite ufficiali recenti in Italia. Senti, la scelta di questi titoli? Sono film che noi in parte abbiamo potuto vedere a festival, in parte collaboriamo con Cinema Ambiente, che ovviamente è da anni che conduce queste battaglie, però spesso questi lavori sono un po' relegati ad attività più magari didattiche, più di scuole, eccetera, eccetera, per cui non hanno o festival, certamente, però è uscita proprio pubblica, insomma, libera. Per cui abbiamo pensato di mettere insieme questi lavori, alcuni inediti, altri che avevamo, come dire, presso il nostro archivio da qualche mese, e costruire questo percorso. Il primo lavoro del 7 aprile è questo Gli orsi della Kamchatka, e questo ad esempio è un bellissimo lavoro in cui c'è un racconto, una telecamera che osserva la nascita, praticamente segue per un anno questa famiglia di orsi, quindi dalla nascita dei piccoli fino al completamento dell'anno, e in tutte le stagioni. E potrebbe essere semplicemente un lavoro naturalistico. In realtà ha a che fare molto con la contemporaneità e con l'ambiente, dal momento che poi, quando noi letteralmente ci innamoriamo di questa famiglia d'orsi, la telecamera si alza ed è, come dire, uno spazio molto limitato quello dove questi orsi possono liberamente muoversi, perché poi attorno a questi posti, attorno a questi ghiacci, ci sono industrie e una presenza urbanistica davvero inquietante, che minaccia sicuramente l'intero ecosistema. Per cui, come dire, è un film di silenzio, di osservazione, ma che ci fa davvero, con proprio la zampata finale, riflettere molto. Come ad esempio un altro film, invece questo più legato alla globalizzazione, L'oro rosso, che ci racconta come il mondo economico cinese stia facendo del pomodoro davvero un elemento di forza economica di carattere mondiale, tenendo presente che in Cina, sui tavoli cinesi, non esiste il pomodoro, non è una verdura che i cinesi mangiano, ma è esclusivamente business, e business che diventa la chiave per colonizzare paesi, continenti come l'Africa, e mettere a dura prova anche realtà come quella italiana. Il meccanismo con cui c'è proprio un'invasione economica, un diritto del prodotto, in questo caso del pomodoro, da parte dei cinesi come strumento di controllo, di potere, è abbastanza inquietante, anche se raccontato con grande leggerezza. Poi c'è tra i film che facciamo, c'è Le Saison di Jacques Perret, e anche qui è una ripresa, diciamo, di come erano i boschi nel centro Europa e come ci si poteva immaginare i boschi fino a pochi anni fa, quindi aree di grandissima ricchezza, di biodiversità, e come la presenza dell'uomo in questi anni ha davvero mutato tutto. Anche qui non ci sono parole, c'è una grande osservazione della natura, e però anche dell'uomo che interviene in modo davvero poco ortodosso. E infine il Just Eat It, un film questo un po' più vecchiotto, che però questa Food West Story ci racconta invece il tema dell'alimentazione e di come sia importante anche sapersi alimentare con criterio e con conoscenza di quello che noi andiamo a mangiare tutti i giorni, insomma. Per cui sono degli spunti di temi a volte noti, a volte meno noti, o meno conosciuti soprattutto dai giovani, e contiamo che con questa rassegna, insomma, possano prendere maggiore consapevolezza. Credo ne manchi uno, però. Che è Everest Green, che è un film molto bello, questa volta girato appunto un po' alle pendici dell'Everest, e noi quando parliamo di Everest abbiamo sempre un'idea candida di una delle cose più belle che ci siano al mondo, e anche più pericolose, più una vetta, insomma, ambita da tanti. Oggi l'Everest è anche un grande parco di divertimenti per ricconi che arrivano, si fanno portare con gli elicotteri, si muovono con bombole, con ogni tipo di cibo, che poi abbandonano proprio alle pendici dell'Everest. C'è un problema proprio di immondizia, un problema proprio di recupero di cose che rimarrebbero se no in questo contesto naturale. Mm-hmm. E anche quello è uno sfregio alla natura, allo stile di chi va in montagna e che vede nella montagna anche qualcosa che va oltre la semplice, insomma semplice mica tanto, però va oltre la scalata, ed è anche quello un documentario che ci apre gli occhi su come il business, anche sotto questo aspetto qua, a volte diventi invasivo di realtà e vada proprio a cambiare geneticamente un modo di stare al mondo e di affrontare la natura. Mm-hmm. Dicevi dell'ingresso gratuito? Sì, fino ai 25 anni nessuno paga, questo per intercettare proprio quel popolo che finalmente è sceso in piazza e si è fatto sentire un po' in tutto il mondo. Ed è un popolo bello, un popolo di ragazzi, di studenti che vanno ascoltati, vanno aiutati. E questo è il nostro aiuto che proviamo a dare. Ci lasci in chiusura tutti i riferimenti per la programmazione? Basta andare sul sito di Cineteca Milano, www.cineteca Milano, lì si sceglie una delle sale della programmazione, viene fatta al museo, quindi la sala di proiezione del MIC, del Museo Interattivo del Cinema, e poi si aprono i calendari, le schede, le fotografie, per cui poi si trovano tutte con grande facilità un po' tutte le informazioni. Allora ricordiamo la rassegna Cinema is the Future con 5 documentari sull'ambiente a Milano al Museo Interattivo del Cinema dal 7 al 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana. Ci sentiamo presto, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao. Va bene, ciao. Con Sabina Pazzi, curatrice di una serie di appuntamenti cinematografici dal titolo Regia alle donne, a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, dal 6 marzo al 21 maggio 2019. Sabina, ben trovata. Ciao, ben trovato a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi invitato alla tua trasmissione. Ci racconti? Allora, intanto non sono sola. Siamo un gruppo, cioè un'associazione della Casa Internazionale delle Donne, e con me c'è Loredana Monaco, Gioia Marchetti, Raffaella Milazzo e poi tutto il gruppo, tutte le donne della Casa Internazionale che ci sostengono e ci aiutano e sono tutte dentro questo progetto. L'idea è quella di parlare di cinema, ma in realtà di parlare anche di altro, cioè delle donne che sono queste, diciamo, invisibili in tutti i campi, e quindi è nata, diciamo, questa idea da una relazione fatta dalla DEA, che ha fatto anche un incontro molto interessante a metà gennaio su Gap e Chuck, e quindi sull'uguaglianza di genere nell'industria dell'audiovisivo. E su questo poi sono scaturiti incontri nelle nostre associazioni, abbiamo pensato che con il cinema potevamo far veicolare un altro messaggio, che è quello sempre della discriminazione di genere, e quindi un titolo forte come Regia alle donne, che indica subito che al comando c'è una donna, quindi c'è un cinema anche diverso nei generi, ci sono documentari, ci sono corti, ci sono giovani ragazze del Centro Sperimentale Cinematografia, ci sono registe affermate internazionali, e poi ci saranno anche tutte le altre donne che girano intorno al cinema, come giornaliste, critiche, montatrici, e poi spero che arriveranno anche altre che sentiranno la tua trasmissione e verranno da noi perché in realtà è una rassegna che ha un programma per ora stabilito con delle date fino a giugno, ma noi vorremmo ampliarle e ospitare anche altre registe giovani, registe più affermate, registe storiche. Abbiamo la prima documentarista italiana, che è Cecilia Mangini, che è un personaggio noto insomma, al mondo del cinema. Oppure abbiamo Laura Biscuri, che è un'altra, diciamo, regista affermata. Questo è Antonietta De Lillo, o anche Carlotta Cerquetti, che ha fatto un documentario sul vigneto, sul Vinfa, che è molto interessante, che verrà qui alla casa, come tutte le registe. La cosa particolare è che avremo tutte le registe presenti, che è un plus rispetto a vedere solo un film. Quindi ci sarà un incontro, infatti la rassegna si chiama Film e Incontri con le Registe di vario di genere, che è appunto sia il genere cinematografico che il tema del divario di genere. Quindi manderemo anche queste pillole di interviste molto interessanti che stanno già online sul sito della DEA, che è appunto questo rapporto fatto dal CNR, che parleranno le registe della discriminazione, cioè di quanto è stato difficile conquistare questo posto di comando ed esprimersi e aver fiducia senza essere affiancate sempre da uomini o da situazioni non facili. E quindi è una iniziativa, un progetto che vuole puntare su questo e si allinea anche a questo grande evento che la Casa Internazionale delle Donne insieme e sta collaborando con questa grande manifestazione che sarà fatta l'8 marzo, che è organizzata da Non Una di Meno e da tutte le altre realtà femministe a Roma, in cui si parlerà sempre di diritti, perché i diritti vanno sempre difesi, e come mai come in questo periodo, visto appunto le altre iniziative che abbiamo fatto la settimana, qualche giorno fa, sul pillon, contro pillon, contro discriminazione e contro tutte queste libertà che sembravano acquisite e invece, come dire, vanno ribadite, vanno sempre riconquistate. Vorremmo che venissero infatti in questi incontri le giovani e i giovani. E quindi ecco, voi ci darete una mano, penso. Certo. Senti, la scelta dei titoli? La scelta dei titoli è stata anche presa in accordo con le registe, anche con le case. Ecco, una cosa importante è che tutto questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione e alla gentile partecipazione di tutte le case di distribuzione, come l'Istituto Luce, abbiamo la GIA e abbiamo, non potrei dimenticarmi di qualcuno adesso così, però insomma comunque ci sono tutte le più importanti case di distribuzione e anche di produzione, perché come sappiamo i documentari sono sempre a basso costo e quindi diciamo ci sono anche produzioni molto indipendenti, meno note, che forse non tutti insomma conoscono. Però ecco, abbiamo anche dei film della I Wonder Pictures, che è una delle molto note, e la Teodora Film, Piano F, Mare Chiaro Film, e poi avremo a sorpresa, che non sono nel programma, degli eventi speciali che ancora non abbiamo svelato, perché stiamo aspettando così di capire un po' come andranno le cose e di come andrà il vento, perché come forse gli ascoltatori e le ascoltatrici sapranno, noi alla Cassa Internazionale delle Donne abbiamo una situazione come comune così molto particolare, in sì, cui la nostra sindaca Raggi non ci risponde. Noi siamo pronte, abbiamo fatto vari eventi, uno all'auditorium, e stiamo cercando di resistere con energia, cultura, politica. Abbiamo bisogno della partecipazione di tutte e tutti, e quindi vi aspettiamo qui alla casa, anche con proposte, con partecipazione. Se guardate il nostro sito ci sono tanti eventi, c'è una newsletter ricca e fornita, c'è una pagina Facebook con tantissimi contatti. Ecco, siamo un luogo raro che va difeso, come molti altri posti, come dice Siesta, e come altri posti che sono a Roma, meno noti, però vitali e necessari a questa città, che di posti ne ha sempre meno, di luoghi ce ne sono sempre meno. Ho visto che tutti gli appuntamenti sono alle ore 19, ecco, come sarà strutturata la serata? Allora, la serata, sì, per ora, poi andando verso l'estate magari diciamo andrà un pochino più in là, forse l'orario, di sicuro, però per una questione di comunicazione abbiamo deciso le 19. Inizieremo con la presentazione della regista, poi sarà affiancata alcune volte da, appunto, come dicevo, da, per esempio, verrà Cristiana Paternò oppure altre giornaliste che faranno appunto queste interviste e parleranno delle questioni di genere, della difficoltà diciamo, di tutta l'operazione cine, diciamo, dello sviluppo del film, del documentario, del corto, cioè di tutto il percorso. E poi si vedrà il film, una visione corale che io consiglio sempre, perché è decisamente migliore rispetto a uno schermo piccolo di un cellulare o di una televisione, perché insieme ci sono energie diverse e questa è una cosa che difendo molto, perché abbiamo visto che anche facendo teatro e qualsiasi evento, quando si condivide la situazione, cioè l'effetto è diverso, si prova emozioni diverse. E poi diciamo, chiamiamolo grande schermo, noi siamo attrezzate con una sala che è buona, si sta bene e si sta insieme. E quindi questa è diciamo l'organizzazione del come abbiamo pensato gli eventi. Stasera per esempio iniziamo con un fuori programma, infatti non è dentro perché le storie sono tutte al femminile, ma il regista è un uomo, con un bellissimo film che vi consiglio se non l'avete visto, che è Dove bisogna stare, ed è una storia incredibile. Sì, abbiamo avuto ospite il regista, sì. Ecco, bravissimo, quindi sapete di cosa parlo, sì. Sapete quanto è bello. E poi avremo, per fortuna, verrà anche una delle protagoniste a raccontarci la sua storia. Bene. Perché il valore umano è un valore aggiunto, ecco, rispetto a un video, un DVD visto a casa da soli. Sì. Quindi vi invitiamo tutti alla Cassa Internazionale delle Donne, che è Via della Lungara. Ecco, grazie di averci dato questo spazio. Allora, ricordiamo l'appuntamento con una serie di proiezioni con ospiti, regia alle donne, questo è il titolo, a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, dal 6 marzo al 21 maggio 2019, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Sabina Passi. Sabina, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo e viva le donne. Ciao. Con Stefano Finesi della Farfalla sul Mirino, curatore dell'ottava edizione di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, una rassegna cominciata il 30 ottobre 2018, andrà avanti fino al 28 maggio 2019. Stefano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, c'è stato intanto un primo appuntamento il 30 ottobre, il prossimo sarà il 13 novembre, giusto? Sì, e poi ecco, il 13 novembre sarà anche uno degli eventi, insomma, di quest'anno, perché proiettiamo in collaborazione con l'Istituto Polacco La Madre dei Re, che è un film di Janusz Zagórski dell'82, è un film di culto, diciamo, che viene proiettato all'interno dei festeggiamenti del centenario della Polonia moderna, e che all'epoca fu censurato e bandito dal regime comunista e venne proiettato soltanto nell'87 al Festival di Berlino, dove vinse l'Orso d'Argento e venne accolto come un capolavoro, perché è un film che di fatto racconta 20 anni di storia polacca attraverso la storia di una famiglia, cioè di una madre sola con 4 figli. Per cui insomma è un evento particolare, perché è un film difficile da vedere, che come tutti gli altri film verrà proiettato in 35 mm, peraltro è una copia che viene dagli archivi dell'Istituto Polacco ed è molto rara, per cui ecco, è veramente un'occasione, un bel evento, è anche l'occasione per recuperare un film conosciuto da pochi ma notevolissimo. E poi guarda, intanto gli altri titoli in programma anche sono, alcuni sono già popolarissimi, altri meno, come sempre facciamo, il filo rosso è sempre il piacere del cinema, come dire, e poi il discorso che ormai sono 17 anni che fa l'associazione, ossia la battaglia per il recupero della pellicola 35 mm. Sì. Stefano, quanti titoli in totale? Sono 15 titoli, io peraltro ve ne segnalo un po' così a volo di uccello, e c'è un Tranquillo weekend di paura di Burman, che è un film che da rivedere in sala, insomma è già di per sé un'emozione clamorosa, anche per la fotografia incredibile. Ci sono commedie della Hollywood classica come Lady Eva di Preston Sturges, ci sono cult più moderni come Veluto Blu di Lynch o La zona morta di Cronenberg, e poi anche ovviamente dei super classici come Gertrude, che è l'ultimo film di Dreyer, oppure il primo successo di Ozu, Sono nato ma, un film ancora muto, benché fosse del 1932, che presenteremo il 16 aprile con l'accompagnamento al pianoforte dal vivo. Ecco, a proposito un'altra cosa, un evento a cui tenevamo in particolar modo è martedì 30 aprile, che cade il trentennale della morte di Sergio Leone, proietteremo per un pugno di dollari, sempre in 35 mm, la copia restaurata che è in deposito alla Cineteca Nazionale, e che è un altro film che, insomma, rivedere al cinema soprattutto fa sempre piacere. Che arco temporale coprono? Guarda, partiamo appunto dagli anni 30 fino agli anni 80 praticamente. Ti ho detto, c'è questo ozzo degli anni 30 per gli anni 80, quindi diciamo dei nuovi classici, da Cronenberg a Lynch o Woody Allen, con cui abbiamo inaugurato. Poi c'è questa pattuglia consistente di nuova Hollywood, quindi del grande cinema americano degli anni 70, tra cui ti segnalo anche il primo film di Terrence Malick, La rabbia giovane, che insomma è forse il film più di culto di Malick, che all'epoca venne accolto veramente in modo straordinario, che è un film di una modernità assoluta e anche di una bellezza visiva che, voglio dire, al cinema e in sala rende molto meglio. Anche se la palma del miglior film di culto di quest'anno va a Pink Flamingos di John Waters. I cultori di John Waters sanno che il film non esiste in DVD, in Italia non è mai uscito. Questa è una copia in 35 mm con sottotitoli italiani in originale, perché peraltro il film non è stato neanche mai doppiato in Italia, e quindi insomma è quella veramente un'occasione straordinaria per vederla. L'abbiamo messo di martedì grasso, 5 marzo, che comunque mi sembra giusto, che visto il suo spirito completamente sovversivo, chi l'ha visto lo sa, insomma è considerato il film il capostipite del trash cinematografico. Sì. E mondiale, insomma, per la maggior parte comunque quasi tutta Hollywood. Non solo Hollywood. Io ti ho citato Gertrude prima di Dreyer, che ti dico anche Perfidia di Bresson, che sarà in programmazione martedì 22 gennaio. Questo La madre dei re, questo gioiello polacco, te l'ho citato, sì. Il 13 novembre, e per un pugno di dollari. Poi per il cinema inglese avremo anche un Peter Greenaway, che chiude la rassegna martedì 28 maggio, Il ventre dell'architetto. Per noi, al di là del film, che è comunque uno ancora dei più interessanti di Greenaway, quando era ancora, insomma, veramente un regista veramente molto molto interessante, con una grande colonna sonora. E anche un omaggio a Roma, perché il film è una specie veramente di dichiarazione d'amore a Roma, per cui in qualche modo in questi tempi così burrascosi per la città ci piaceva anche chiudere con un omaggio a Roma. Stefano, per la scelta dei titoli, comunque in continuità rispetto alle passate stagioni? Sì, è una scelta legata solo, ecco, dal piacere del grande cinema e, come ti dicevo sempre, anche della riscoperta dei classici del passato in pellicola 35 mm in sala. Per noi questo continua a essere fondamentale, infatti l'inaugurazione è stata anche molto bella, perché l'80% degli spettatori in sala, che era tutta esaurita ovviamente, erano ragazzi di 20 anni, per cui per i quali non è scontato che vedere al cinema un film degli anni 80. Mm-hmm. Per loro comunque, avendo più di 30 anni, è già un classico praticamente. La cadenza quale sarà? La cadenza è sempre bisettimanale, sempre il martedì, e niente, è proprio la nostra solita formula. Ormai è l'ottavo anno, quindi insomma è una formula consolidata che piace molto. Sì. Noi chiediamo sempre agli spettatori di arrivare, insomma, prima possibile, magari per l'accesso in sala, perché spesso ci sono, insomma, c'è grande richiesta, eccetera. La rassegna, come sempre, è ingresso libero fino al esaurimento posti. Sì. Ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, conviene andare sul sito di Pala Expo, che è www.palazzoesposizioni.it, e lì comunque ci sono tutti i dettagli. Bene, ricordiamo l'ottava rassegna di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, dal 30 ottobre 2018 al 28 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Grazie Finesi a dell'associazione La Farfalla sul Mirino. Grazie Federico. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie.